GR24, il sole 24 ore. Il presidente Obama e Hu Jintao a Pechino si impegnano sull'ambiente, ma la svolta verde non c'è. Maroni, i volantini dei NAT, segnali seri. INAIL, calano gli infortuni sul lavoro, dipende dalla crisi. Uova, slogan e proteste, studenti in piazza in tutta Italia, a Milano tensioni. Buona giornata da Anderita D'Ambrosio e dalla redazione. In primo piano dunque a Pechino per il colloquio oggi tra il presidente americano Obama ed Hu Jintao. Si è parlato di ambiente, diritti umani, economia e nucleare. And he told me that... Economia e diritti umani al centro dei colloqui tra Barack Obama e Hu Jintao, i rappresentanti delle due potenze senza le quali, ha detto ieri il presidente statunitense, nessuna sfida internazionale può essere vinta. Per questo con il leader cinese Obama parla anche di Iran e di possibili conseguenze se non dimostra l'uso pacifico del suo programma nucleare. Obama corteggia la Cina perché le due economie hanno bisogno l'una dell'altra, senza però dimenticare i diritti umani. America's bedrock beliefs. That all men and women possess. Gli ho detto che l'America crede che i diritti umani sono valori universali che riguardano tutti, uomini e donne. Dovrebbero valere per tutti, comprese le minoranze etniche e religiose. E offre il suo sostegno a Pechino per una ripresa dei colloqui con il Dalai Lama. Hu Jintao dice che paesi come Stati Uniti e Cina possono avere differenze su alcune questioni. L'importante è che siano discusse in modo costruttivo e aperto al dialogo. E soprattutto chiede di respingere il protezionismo in ogni sua manifestazione. Cristina Ballotelli, GR24, il sole 24 ore. E da Pechino c'è stato a sorpresa l'annuncio del salvataggio del summit di dicembre a Copenaghen sulla riduzione delle emissioni carboniche. Ma sarà davvero possibile? E quale escamotage è stato messo in campo? Dai negoziati di Copenaghen sul clima dovrà uscire un accordo mondiale che abbia effetto operativo immediato. Lo hanno detto in conferenza stampa congiunta il presidente degli Stati Uniti Obama e quello cinese Hu Jintao. Un accordo che dovrà essere operativo ma non legalmente vincolante. È qui che sta l'escamotage, che è stato trovato e che purtroppo serve a poco, anche se alcuni credono sia l'inizio di un rilancio del vertice sull'ambiente di Copenaghen. In realtà, sul taglio delle emissioni di gas serra servono proprio, e ce l'ha insegnato l'esperienza, i vincoli. Tagliare le emissioni di gas serra è faticoso e costoso e molti paesi stanno già implorando che non si applichi alla lettera Kyoto, perché con la crisi in corso il salasso sarebbe insostenibile. Tutto vero, ma è vero che il tempo non c'è più. Ogni anno cresce il numero degli ecoprofughi, ad esempio. La Confindustria italiana e tedesca hanno già detto che chiederanno all'Europa di non decidere ulteriori tagli unilaterali alle emissioni di CO2. Dunque, ricapitolando, dal 7 al 18 dicembre i governi di oltre 190 paesi si riuniscono a Copenaghen per siglare un nuovo accordo globale sul clima. Ma che cosa conterrà? Cristina Carpinelli, GR24, il sole 24 ore. Ed oggi a Roma, seconda giornata di lavori al vertice FAO. A parlare questa mattina il presidente dello Zimbabwe Mugabe, il quale auspica che i fondi annunciati dalla G8 dell'Aquila per i paesi in via di sviluppo non vengano usati come un'arma politica. E invece il capo dello Stato Giorgio Napolitano si trova in visita ad Ankara. Oggi si è soffermato sul negoziato per l'ingresso della Turchia in Europa. Deve procedere senza ostruzionismi, ha sollecitato. Appello poi del presidente turco Gül. In questo senso l'Europa, ha detto Gül, non costruisca un muro sulla Turchia. Terrorismo, ci sono dei segnali seri, ha detto il ministro dell'interno Roberto Maroni, che non sottovaluta i volantini dei nuclei armati territoriali recapitati ieri alla RAI, a Mediaset e dalla redazione milanese dell'Unità e del giornale. Sentiamo il ministro. Sono volantini che stiamo seguendo con grande attenzione, non li sottovalutiamo, non è il frutto di una mente malata, ma pensiamo che dietro ci sia una qualche forma di organizzazione. Il richiamo alle Brigate Rosse, ma anche la presa di distanze rispetto a quei metodi e soprattutto lo sviluppo della minaccia su base territoriale, come viene esplicitamente richiamato, ci preoccupano e ci fanno considerare questa minaccia come una minaccia da prendere seriamente in considerazione. La crisi economica a Vicenza, la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia è tornata a parlare di imprese in difficoltà. Sentiamola al microfono di Anna Marino. Oggi c'è un aggravante che oltre ai, come dire, i crediti della sanità che sono sempre stati, come dire, non pagati, e noi avevamo anche stimato circa 60-70 miliardi di euro di crediti non pagati, oggi sono anche i comuni che non pagano le aziende per gli appalti per i vari lavori, dai più piccoli ai più grandi. Addirittura da settembre c'è stato un ulteriore peggioramento, questo è molto negativo, nel nord-est è particolarmente forte e qui noi rischiamo veramente che imprese falliscano, debbano portare i libri in tribunale perché non vedono pagati i loro lavori, quindi imprese che hanno lavorato, hanno pagato giustamente i dipendenti, hanno pagato le materie prime per poter fare i lavori e oggi non vengono pagate. Questo è un fatto molto molto negativo, drammatico. Ovviamente tutto questo si inserisce in una situazione di crisi dove gli ordini sono pochi, dove c'è già una restrizione del credito da parte delle banche. Ecco, trovarsi in una situazione in cui lo Stato, che dovrebbe essere il primo pagatore, non paga o paga con ritardi biblici, è veramente una situazione inaccettabile. Vi ricordo che nella seconda parte del nostro GR ci collegheremo con Anna Marino con Vicenza, dove si sta svolgendo la manifestazione Orienta Giovani. Adesso parliamo di infortuni sul lavoro, sono in calo nel 2009, è un altro effetto della crisi. Ci colleghiamo in diretta con Vincenzo Miglietta, che è ad un convegno nel quale sono stati presentati questi dati importanti. Buongiorno Vincenzo. Sì, buongiorno. Dati incoraggianti quelli dell'INAIL relativi al primo semestre dell'anno. In flessione gli infortuni sul lavoro, meno 10,6% rispetto allo stesso periodo del 2008, in calo anche i casi mortali, 490 a fronte di 558 del primo semestre dello scorso anno, con un meno 12,2%. Nel complesso, spiegano dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, i dati forniti vanno letti anche in funzione dell'andamento dell'economia, che nel periodo ha registrato un calo della produzione e dell'occupazione, oltre all'aumento consistente dell'utilizzo della cassa integrazione. I dati dell'INAIL sono positivi, ma non bisogna abbassare la guardia, ha commentato il ministro del welfare Sacconi. Ascoltiamo le sue parole. Per fortuna ci sono meno persone che sono decedute nel lavoro, meno persone che hanno avuto infortuni. E allora si deve registrare positivamente un calo degli infortuni, soprattutto di carattere mortale, che riguardano anche ambiti nei quali non c'è stato questo calo della produzione o c'è stato in misura minore, quindi è talmente generalizzato che va registrato. Ma insisto, poi bisogna vedere bene dentro i dati, noi stiamo guardando dentro i dati, anche dal punto di vista territoriale, va molto bene il nord-est, non va bene il centro. Il calo degli infortuni ha interessato soprattutto l'industria, con un picco nel comparto metalmeccanico, in flessione il fenomeno nelle costruzioni, dove si registra una riduzione degli infortuni del 15,8% e una diminuzione più modesta dei casi mortali, meno 3,9%. E da Roma è tutto, allinea allo studio. Grazie Vincenzo, e noi restiamo a Roma, ma per parlare dell'inchiesta su Luciano Garofano, ex comandante del RIS di Parma, che sta fornendo la sua versione in una conferenza stampa. Ci colleghiamo in diretta con Savino Gallo. Buongiorno Savino. Sì, buongiorno. Non è stata l'inchiesta giudiziaria a suo carico ad indurre Luciano Garofano a presentare le proprie dimissioni dall'Arma dei Carabinieri. È questo il primo aspetto che l'ex comandante del RIS di Parma ha voluto sottolineare nel corso della conferenza stampa ancora in corso. Dimissioni che invece sarebbero state decise a seguito del trasferimento alla guida del RACIS di Roma, che avrebbe impedito a Garofano di seguire altre attività professionali già intraprese a Parma. Quanto all'inchiesta che imputa all'ex comandante i reati di abuso d'ufficio, truffa, peculato e falso ai danni dello Stato, Garofano e i suoi legali sono stati molto chiari. Chiediamo l'archiviazione, hanno ripetuto, oppure si vada immediatamente a processo. Per l'ex colonnello, ora generale in congedo, l'accusa è di aver svolto consulenze a pagamento nel corso dell'orario di servizio, ma le consulenze retribuite, ha affermato Garofano, erano solo quelle effettuate al di fuori di quell'orario, pagando regolarmente l'affitto degli strumenti utilizzati. Col passare degli anni, però, l'aumento del carico di lavoro avrebbe indotto i membri del RIS, di cui Garofano era capo, ad effettuare le consulenze richieste dalle diverse procure anche in orario lavorativo. Per queste ultime consulenze, però, Garofano avrebbe rinunciato ad ogni tipo di retribuzione economica. E da Roma è tutto. Grazie a Savino Gallo. È argentino, ha 45 anni, dal 2006 padre José Gabriel Funes, gesuita, è il direttore della Specola Vaticana, l'osservatorio astronomico della Chiesa. Al microfono di Katia Caramelli non esclude l'esistenza di altre forme di vita nell'universo e spiega che non tutti gli astronomi sono atei, anzi. La storia della specola vaticana, dell'osservatorio astronomico, inizia nel 1582 con la riforma del calendario fatta da Papa Gregorio XIII. Questo, potremmo dire così, è il primo interesse ufficiale della Chiesa per l'astronomia. Poi al Collegio Romano, quello che oggi è la Università Gregoriana dei Gesuiti, lì c'è stata una lunga tradizione di gesuiti astronomi. Un esempio, forse il più importante, è quello di padre Angelo Secchi. Lui è stato il primo a classificare gli spettri delle stelle in diversi tipi. Lui osservò circa 4.000 stelle, si considera uno dei padri dell'astrofisica come la conosciamo oggi. Siamo nella settimana della cultura di impresa e si celebrano anche i 25 anni dell'archivio storico del gruppo Intesa San Paolo. Nato nel settembre 1984, fu aperto alla consultazione nell'ottobre dell'88. E Leo Valiani, di cui si celebra quest'anno il centenario della nascita, fu tra i suoi fondatori. Nel pomeriggio in programma anche una tavola rotonda intitolata Perpetuare il fuoco, non custodire le ceneri. Adriana Fracchi ha intervistato Francesca Pino, direttore dell'archivio storico di Intesa San Paolo. È stato Leo Valiani a fondare l'archivio storico dell'allora Banca Commerciale Italiana nel 1984. E il caso ha voluto che scegliesse proprio me, Francesca Pino, giovane storica e archivista, e già dalla fine degli anni 60 Raffaele Mattioli aveva iniziato a far studiare i documenti della Comit, ma la svolta fu, grazie a Leo Valiani, la creazione di un ufficio della banca dedicato all'acquisizione dei documenti e alla loro inventariazione scientifica. L'apertura al pubblico avvenne nell'ottobre del 1988 e l'esempio della Comit venne imitato a breve distanza da altre importanti banche italiane come il Banco di Roma e il Credito Italiano. Quanto è importante avere un archivio storico per una banca? È importante sia come memoria autodocumentazione, quindi per poter ricercare i propri precedenti amministrativi e legali, che come strumento di relazione con il pubblico, in quanto le vicende delle banche si intrecciano con quelle della clientela industriale e non solo industriale, quindi noi ritroviamo la storia economica e sociale a livello nazionale e a livello locale ed anche a livello internazionale. Le 13:18 minuti, ancora una buona giornata da Anna Rita D'Ambrosio e dalla redazione. Nella prima parte del nostro GR abbiamo parlato del vertice a Pechino tra Obama e Hu Jintao, si è parlato di clima ma la svolta verde non c'è. Abbiamo ascoltato la voce di Maroni che ha parlato dei volantini, dei NAT consegnati ieri in alcune redazioni di giornali, segnali seri, ha detto il ministro dell'Interno. Abbiamo parlato di crisi, la Marcegaglia ha lanciato un nuovo allarme sullo stato debitore e le imprese che sono in difficoltà. Ma una conseguenza della crisi sono il calo degli infortuni sul lavoro. Adesso, come detto, parliamo degli studenti in piazza oggi in tutta Italia. Noi ci colleghiamo con la capitale, con Chiara Di Michele. Buona giornata, Chiara. Sì, buongiorno. È ripartita oggi la protesta del mondo dell'università contro la riforma Gelmini. Con cortei e sit-in sono stati organizzati in oltre 50 città italiane, disagi un po' ovunque e in alcuni casi anche scontri con la polizia come a Milano, 4 i fermi. A Torino invece gli studenti hanno lanciato uova contro la sede regionale del MIUR e hanno occupato il rettorato. A Roma si sono uniti alla protesta anche gli studenti iraniani e il mondo della scuola. Tutti insieme hanno sfilato dietro lo slogan Nessun merito per chi affama scuola e università. In questo momento sono qui con uno studente del movimento dell'Onda della Sapienza. Cosa chiedete e perché urlavate non c'è niente da meritare? Significa denunciare lo stato in cui realmente versa l'università, di dotare di investimento e denunciare che questa riforma, che viene propagandata come una grande ristrutturazione università, in realtà nasconde un disinvestimento totale, una riforma a costo zero che affossa definitivamente, affama università, formazione pubblica e ricerca. Gli studenti promettono mesi di mobilitazione. Per il momento la risposta di ieri del ministro dell'istruzione Maria Stella Gelmini è stata che queste manifestazioni sono slogan vecchi, espressione di posizioni conservatrici che non aiutano il paese. Da Roma è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Chiara Di Michele. Questi erano gli studenti in piazza oggi, e se guardiamo ad una fascia di età più giovane, la sfiducia è il sentimento più diffuso. Lo rivela il rapporto annuale dell'Eurispes e Telefono Azzurro presentato oggi. Il futuro professionale incerto e nebuloso. 5 adolescenti italiani su 10 sono convinti che per loro sarà arduo trovare un'occupazione stabile e che li realizzi, nonostante sia il vero obiettivo della vita, più di sposarsi ed avere dei figli. È il ritratto della cosiddetta generazione provvisoria, i teenager di oggi, fratellini minori dei trentenni immersi nel precariato, che emerge dalla tradizionale ricerca condotta da Telefono Azzurro in collaborazione con Eurispes. Il lavoro come una chimera irraggiungibile in un mondo in cui anche una laurea per un giovane su tre può rappresentare poco più di un sogno. E mentre la tecnologia fa ogni giorno passi avanti, quasi tutti sono costantemente online e 7 su 10 hanno un profilo Facebook, ciò che manca davvero agli adolescenti italiani sono sempre più i punti di riferimento e i modelli che ne orientino la crescita. Al punto da pensare, come fa il 40%, che la legge in fondo non sia uguale per tutti. Un atteggiamento di sfiducia che si traduce anche nella vita di tutti i giorni. Ecco perché 2 su 5, quando assistono a dati di bullismo nei confronti di loro coetanei, a scuola o tra gli amici, fanno finta di niente e non denunciano. Massimo Di Scienza, GR24, Il Sole 24 Ore. E allora, come aiutare i giovani a riconquistare la fiducia, ad avvicinarsi al mondo dell'impresa e del lavoro? Le risposte le dà Orienta Giovani, che è in corso a Vicenza. Ci colleghiamo in diretta con la nostra Anna Marino. Anna. Sì, Anna Rita, si discute soprattutto di tecnologia e ricerca alla 16ª edizione di Orienta Giovani qui a Vicenza, la giornata nazionale Orienta Giovani e l'evento che ogni anno Confindustria organizza per un incontro tra gli imprenditori e appunto i ragazzi. In ogni provincia italiana le associazioni industriali, in collaborazione con le scuole, i centri formativi, le università, offrono agli studenti e agli insegnanti un momento, un'occasione per conoscere più da vicino il mondo dell'impresa e per avere utili indicazioni e consigli sull'inserimento successivo professionale. Il vento della tecnica Tecne, il tema di questa edizione, e promuove soprattutto gli istituti tecnici, perché devono recuperare prestigio per il territorio e per i ragazzi, come sostiene anche il vicepresidente di Confindustria per l'Education Gianfelice Rocca, che sottolinea però che ora la sfida è continuare a premiare il merito nella scuola come è stato fatto finora dal governo. Ma il tema di attualità sono i tagli alla ricerca, che sono davvero importanti. Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria, si dice contraria a questi tagli. La ricerca e l'innovazione sono l'unica strada, dice, per poter continuare ad avere un sistema manifatturiero forte e competitivo, e questo soprattutto per il nostro paese. Sentiamo. Non possiamo competere sui costi con la Cina, con i paesi dell'est, possiamo competere nel mondo se abbiamo prodotti a maggior valore aggiunto con tanto contenuto di innovazione e tecnologia. Il Made in Italy è fatto di questo, quindi se noi vogliamo mantenere la forza della nostra impresa dobbiamo assolutamente investire in ricerca, quindi noi siamo contrari ai tagli e stiamo chiedendo con forza che anche il tema del credito d'imposta per la ricerca, che oggi ha un tetto col meccanismo del click, venga assolutamente rivisto. Quindi tecnologia e ricerca in cima ai pensieri non solo degli studenti ma anche degli imprenditori. E da Vicenza qui è tutto. Grazie ad Anna Marino, noi siamo al nostro sondaggio, oggi dedicato allo scontrino gratta e vinci contro l'evasione fiscale. Potrebbe funzionare così: entriamo in un negozio, compriamo qualcosa e alla ricevuta fiscale che ci viene rilasciata è abbinata una lotteria, un gratta e vinci, qualcosa insomma che ci può far vincere del denaro. Già, ma perché? Perché così l'acquirente sarebbe incentivato a chiederlo questo benedetto scontrino e l'evasione fiscale verrebbe ridotta. Di quanto? Di un 3% l'anno, secondo studi economici che stanno alla base di questa novità allo studio. Lo scontrino gratta e vinci, che già funziona e pare bene in Cina. A importarlo da noi, almeno come idea che forse approderà in finanziaria, Vincenzo Baccarella, giovane imprenditore. È un metodo di contrasto all'evasione fiscale dal basso. Associamo l'emissione di scontrini e fatture a una lotteria permanente tipo Win for Life. Facciamo leva su un vizio italiano per risolvere un problema grandissimo, che è quello dell'evasione fiscale. L'idea dello scontrino lotteria piace ai nostri ascoltatori, che nel sondaggio di oggi l'hanno promosso con il 64% di sì. Bianco o Nero torna domattina alle 8.30 e per votare basta un click radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. La cronaca, il caso Cucchi, c'è una novità dell'ultima ora. L'inchiesta amministrativa del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per far luce su eventuali responsabilità nella morte del ragazzo non si è ancora conclusa, ma il DAP ha nel frattempo disposto il trasferimento dei 3 agenti penitenziari che sono indagati dalla Procura di Roma per omicidio preterintenzionale. Lo sport, il calcio è l'ultima possibilità per la nazionale Under 21 nelle qualificazioni europee. Questo pomeriggio gli azzurrini devono vincere in Lussemburgo per continuare a sperare di raggiungere la fase finale. Domani a Cesena la nazionale maggiore affronta in amichevole la Svezia. E poi c'è la Formula 1, cambia squadra il campione del mondo del 2009, Jenson Button lascia la Brown GP, acquistata ieri dalla Mercedes, e la prossima stagione sarà al volante della McLaren Mercedes. Button ha firmato un contratto di 3 anni a 10 milioni a stagione. È in chiusura la TV, parte oggi lo Zecchino d'Oro, la più vecchia trasmissione italiana legata ai bambini. Nel 2009 i programmi dedicati ai bambini sono i più seguiti, anche se talvolta si rivolgono in realtà agli adulti. Il Grande Fratello 10 schiacciato da Pinocchio. Canale 5 si rifà con Chi ha incastrato Peter Pan di Paolo Bonolis. Vanno forte quindi tutti i programmi che coinvolgono il pubblico dei più piccoli. Alessandro Zaccuri, giornalista di Avvenire e conduttore de Il Grande Talk. Penso che il successo del Pinocchio sia stato il ritorno della cara vecchia visione familiare, la mamma e il papà che dicono guardiamo insieme Pinocchio. E poi c'è il caso di Chi ha incastrato Peter Pan, una tendenza che la TV italiana certo non ha scoperto con Bonolis. Tutte quelle occasioni in cui i bambini un pochino sono funzionali a un'immagine del bambino come adulto in miniatura e anche come consumatore in miniatura, che ovviamente è molto funzionale a una certa idea di TV generalista. Simile successo hanno anche i canali tematici dedicati ai bambini. Sul digitale terrestre il canale televisivo più visto è Boeing. Lo switchover è favorito in molte case proprio dalla presenza dei bambini. Non è più la TV che i ragazzi vedono perché la vedono i grandi, anche se poi magari in queste stesse reti tematiche ci possono essere a volte dei programmi un po' discutibili, ma comunque sono ambienti tendenzialmente più protetti. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. È tutto per questa edizione, grazie in regia a Carmelo Lauricella, vi lascio a Buongiorno America. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.